una ragione, perché ci sia una terra e ci sia una nazione, formata dai ragazzi e dalla gente, di credo, di colore, di cultura differente, perché è l'unica strada, è l'unica certezza, perché nei nostri cuori finisca l'amarezza, è una tribù che balla. Sia con voi, la carica, vi scarica più forte che puoi, è l'energia del sole per quanto ce ne resta, che muove le tue gambe, accende la tua testa, riempi la riserva e vai a manetta, e quando il tuo sudore bagnerà la tua maglietta, ricordati che tu sei unico al mondo, e non esiste primo, non esiste secondo, esiste una tribù, esistono i fratelli, che più sono diversi e più sono fratelli, ognuno ha la sua storia e le sue tradizioni, ognuno il suo colore e le sue religioni, ma il battito del cuore è lo stesso per tutti, la musica fa muovere tutti, il battito del cuore è per tutti lo stesso, la musica il resto è l'eccesso, è una tribù che balla, è una tribù che balla.